Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri dedicati agli imprenditori, alle imprese, a questa realtà dell'economia italiana, soprattutto alle piccole e medie imprese che sono un po' la spina dorsale del paese, che stanno sostenendo appunto la crescita, ancorché limitata, ma con alcuni punti di eccellenza del paese. Ne parliamo con Kate Singleton. Buonasera, signora Singleton. Buonasera. Kate Singleton è una giornalista inglese, scrive per l'International Herald Tribune ed è autrice del libro Mister Amarone, un ritratto di Sandro Boscaini della Masi Agricola. E abbiamo con noi anche Mauro Castelli. Buonasera Castelli. Buonasera. Mauro Castelli è già caporedattore del Sole 24 Ore ed è alla sua ottava opera, mi sembra, ottavo libro. Sì, ormai stiamo esagerando, sì. Un ottavo libro, I Grandi Seduttori, una collana di libri dedicati ai ritratti di appunto piccoli e medi imprenditori. In questo libro, I Grandi Seduttori, quando in economia sono l'idea a vincere, ne sono compresi 25. Poi vedremo, ovviamente non parleremo di tutti, ma c'è proprio uno spaccato della realtà dell'economia italiana. Ma per doveri di correttezza comincerei con la signora Singleton. Lei ha già scritto dei libri sull'Italia, in particolare sulla Toscana. Lei vive in Toscana? Io vivo in Toscana, ma sono vissuta per molti anni a Milano prima e un po' di tempo anche in Sicilia. E si è dedicata in particolare alla realtà italiana da un punto di vista, diciamo, dove è più bella la realtà italiana, del paesaggio e dei prodotti alimentari e il vino in particolare. Sì, e anche al tessile. Ecco. Dopo libri appunto dedicati a Montalcino, alla Val d'Orcia, a un vino come il Sassicaia e altri libri dedicati alla Liguria e all'Umbria, ha scoperto il Veneto e Sandro Boscaini. Ma parliamo prima del Veneto, che cosa l'ha sorpresa e che cosa l'ha colpita in positivo del Veneto? Diciamo più che altro della Valpolicella in questo caso. Ho trovato una zona del Veneto dove il paesaggio è rimasto, non dico completamente intatto, ma quasi, che è diventata un po' una rarità, credo, perché l'industria ha avuto un impatto molto forte sul Veneto. E lì nella Valpolicella ho trovato un paesaggio magnifico, molto complesso, e non a caso il vino che ne deriva è altrettanto interessante e complesso. Ecco, forse anche il successo di industrie, che poi sono in fondo industrie come quelle vinicole, quella di Sandro Boscaini, la Masi Agricola, hanno contribuito alla difesa del territorio, perché il vino si fa con l'uva si fa con le viti, non si può farne a meno, e quindi una coltivazione attenta, una coltivazione accurata delle viti contribuisce indubbiamente a valorizzare il paesaggio. E poi c'è questo Amarone. Perché l'Amarone, Kate Singleton? L'Amarone, diciamo, perché per me, perché l'ho trovato molto interessante, perché ho scoperto, ne sapevo molto poco, un vino originale su tutti i punti di vista, perché è fatto con varietà che si trovano solo in quella zona, con una tecnica molto molto antica, e poi con questo apporto di, diciamo, imprenditoria estremamente lungimirante come quello di Sandro Boscaini, e questo insieme è un connubio affascinante. Ecco, lo stesso Boscaini nell'introduzione scrive: l'Amarone è più di una tecnica, più di un vino, è una vera e propria filosofia, è un'arte, un vino patrimonio di casa di cui essere gelosi e orgogliosi, uno dei simboli più significativi del Veneto e di Verona. Ecco, indubbiamente quindi c'è da parte di questa zona italiana un'eccellenza, possiamo dire un leader in un settore molto molto particolare, molto di nicchia, però un leader mondiale, Kate Singleton. Ma questo senz'altro, perché non c'è un vino che sia neanche simile da nessun'altra parte al mondo. Però credo che sia un ottimo esempio anche di come prendere una cosa in sé molto particolare e renderlo conoscibile e godibile anche in posti molto lontani dal Veneto. Peraltro ho visto che, facendo la ricerca per questo libro, che la tecnica dell'appassimento è una cosa che è stata anche in qualche modo copiata in altre zone del mondo, proprio per via dell'esempio dell'amarone. Ecco, la capacità di valorizzare la realtà, la tradizione. Mauro Castelli, in molti imprenditori c'è questa volontà di partire appunto dalla tradizione per innovare. L'Italia è un paese di grandi innovatori. Ah, decisamente, se non fosse così, povera Italia, davvero. Ecco, quindi ci sono, ecco, come l'esempio di Boscaini, leader in una nicchia molto particolare, molti leader mondiali di nicchie molto particolari di produzione. Ma direi che ce n'è un'infinità, infatti se io ho fatto 8 libri proprio perché ci sono tantissimi imprenditori che magari sono poco noti al grande pubblico ma che fanno grandi cose. Ecco, questo libro ha un'introduzione di Don Antonio Sciortino, che è il direttore responsabile di Famiglia Cristiana, e scrive: è l'Italia che sa reagire con coraggio e creatività, che investe in tempi di ristrettezze, perché così si contrasta il declino, si agevola ripresa e sviluppo, con l'inventiva si mette in gioco sfida e competizione internazionale. Pur con tutti i nostri difetti, qualche complesso di inferiorità è l'italico vezzo, l'autodenigrazione. Ecco, si è parlato forse molto, forse troppo, di declino. Questo libro, lo ricordo, Grandi Seduttori, dimostra che la volontà c'è e non c'è solo un ottimismo di maniera. No, la volontà c'è e non c'è assolutamente ottimismo di maniera. Veramente ci sono le qualità per riuscire, per andare avanti. Diciamo, dispiace soltanto che purtroppo fra gli italiani ci sia questa denigrazione che continua a portarsi dietro, una sorta di provincialismo. Cioè, in Italia non chiamiamo bar giardino, ma lo chiamiamo garden bar, perché così è più frequentato. Sì, fa più fine, più chic. Ecco, in Italia, quindi, questa che emerge dal libro di Mauro Castelli, in cui il sottotitolo del libro dice: quando sono le idee a vincere, la volontà appunto di cercare sempre soluzioni nuove, idee nuove, portare innovazione anche in settori tradizionali, in settori appunto in cui l'Italia magari era molto forte, ma che hanno, i nostri imprenditori hanno trovato la possibilità di innovare nella commercializzazione, nella logistica, nella confezione magari dei prodotti. Sì, certo, l'immagine del prodotto è importante, la qualità altrettanto, ma soprattutto bisogna andare a scovare quelle realtà che hanno fatto dell'innovazione la loro bandiera. So, nel libro è citato un certo Seber che dice che nessuno conosce magari come Seber, però se dico Leitner, del leader mondiale nelle funivie, seggiovie e via dicendo, uno si rende già conto di cosa stiamo parlando. Ecco, c'è un po' di tutto in questo libro, si va dall'alimentare al tessile, al calzaturiero, alla siderurgia, appunto agli impianti a fune, un settore magari un po' curioso che può essere portato alla ribalta. Beh, curioso, c'è la MEC 3 con emendatori che è diventato in pochi anni leader mondiale nei preparati per gelato. Oppure abbiamo Grazia Damiani che invece fa impazzire le signore con le sue parure di diamante. Ecco, c'è Fabrizio Rossi e Alessandro Zen, solo per citarne qualcuno, di Anqua Polesine, che hanno vinto, che sono leader nel mondo del caldo e del freddo. Del caldo e freddo, sì, partendo praticamente niente, i loro genitori hanno incominciato a scoppiazzare a destra e a sinistra e poi hanno innovato, hanno creato del loro e adesso si propongono davvero vincenti. C'è anche Elisio Fabi, non siamo parenti, di Monte Granaro delle Marche, un grande marchio di calzature. Un grande marchio, una piccola realtà ma un grande marchio. Tra l'altro si trova proprio a Casette Dette, vicino a Della Valle, e adesso ha abbinato queste sue calzature di qualità anche ai gioielli e sta allargandosi molto in Estremo Oriente. E c'è una dichiarazione: a 7 anni già nei campi, alle 3 del mattino per dare una mano ad arare, la miseria l'ha fatto crescere in fretta. In fondo la spinta viene anche dalla volontà e dalla possibilità di superare i momenti più difficili. Io credo sempre che i sacrifici che si sono fatti da ragazzo, a un certo punto quando si è adulti, ovviamente portano i benefici. Se uno ha avuto tutto all'inizio, difficile dopo che qualcuno magari si sacrifichi per creare del nuovo. Ecco, gli imprenditori di solito si lamentano, i carichi fiscali, le complessità amministrative, la burocrazia troppo complicata. Anche questi imprenditori di successo si lamentano un po'. Certo, si lamentano un po' tutti, però quando gli chiedi come sono andati gli utili, come sono andati i guadagni, si dimenticano tutti, hanno dei vuoti di memoria. Ecco, qualcuno dice sì, beh, il paese va un po' a rilento, però la mia azienda, cioè, certo. C'è questo orgoglio di essere, di fare impresa. No, c'è l'orgoglio senz'altro, e questi personaggi sono davvero unici. Bisogna andarli a scovare uno per uno, perché spesso non vogliono parlare, perché quasi si vergognano di quello che stanno facendo. In realtà sono realtà nascoste che fanno grande l'Italia. Ecco, torniamo a Kate Singleton. Lei è convinta, è d'accordo con questa analisi, in fondo, che gli imprenditori italiani stanno facendo grande l'Italia? Io sono completamente d'accordo, lo trovo assolutamente affascinante e credo per di più che ci siano anche molti giovani che ancora non hanno molta voce e che possono in anni futuri fare delle cose molto interessanti. Quindi è importante anche portare alla ribalta queste realtà, non è certo fare pubblicità, è portare alla ribalta anche la passione con cui le persone seguono le loro attività, Kate Singleton. Sì, sì, penso proprio di sì. Io trovo c'è un comune denominatore, credo che molti di questi imprenditori bravi sono non solo propositivi ma anche capaci di osservare un pochino in disparte per un attimo per poter valutare, misurare la situazione e se stessi i propri prodotti rispetto a questa situazione. Ed è lì che fanno poi il passo avanti. Grazie mille. Allora diamo appuntamento a Mauro Castelli l'anno prossimo per il nono libro della serie. Speriamo, ma mi sembra un po' eccessivo, non vorrei annoiare troppo. Grazie mille, grazie a Mauro Castelli, autore del libro I grandi seduttori, quando in economia sono le idee a vincere, prefazione di Antonio Shortino, edito dal gruppo del Sole 24 Ore. Sono 300 pagine per 25 euro, 1 euro per ogni storia di imprenditore. Spero ben spesi perché ci sono delle curiosità davvero uniche. E grazie anche a Kate Singleton, autore del libro Mister Amarone, un ritratto di Sandro Boscaini della Masi Agricola, edito da Marsilio Editori, 192 pagine per 19,50 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, così come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.